Buongiorno e benvenuti al proseguimento del corso Mishnah del Kollel Torah Roma. Stiamo proseguendo con il trattato di Bava Metzia, terzo capitolo. Abbiamo studiato la prima Mishnah la scorsa volta ed ora affronteremo una nuova situazione nella seconda Mishnah. Ricordiamoci, noi che leggiamo la Mishnah è come se fossimo i giudici, i Dayanim, che si trovano davanti alla situazione e devono capire come gestirla per la Torah e per la Halakha. E nella Mishnah precedente abbiamo affrontato il caso del Shomer Chinam, come vi ricordate, cioè la persona che custodisce un bene o un oggetto o un animale gratuitamente, e abbiamo visto il livello di responsabilità che è richiesto da questo tipo di custode. Nel caso accade qualcosa all'oggetto custodito, abbiamo visto che non essendo pagato il suo livello di responsabilità non è altissimo, infatti è tra i più bassi livelli di responsabilità e se non è stato lui in qualche maniera colpevole per ciò che è accaduto, lui potrebbe fare il giuramento di cui abbiamo parlato, appunto affermando questa sua innocenza e non dovrebbe pagare nessun tipo di risarcimento danno al proprietario. Ora, quali potrebbero essere altre situazioni in cui una persona custodisca un bene di un'altra, ma non secondo questo parametro che abbiamo visto secondo nella prima Mishnah? Altre situazioni potrebbero essere, in generale, inclusa quella della scorsa Mishnah, le categorie del Shomer, di chi custodisce un bene altrui, sono in realtà quattro categorie di custodi. La prima, appunto, quella che abbiamo già affrontato, il Shomer Chinam, la prima categoria. La seconda categoria, Shomer Sachar, e cioè chi custodisce un bene essendo anche retribuito, quindi riceve una ricompensa, riceve un pagamento, una retribuzione. E questo potrebbe essere un privato, potrebbe essere un istituto di molti tipi, tipo una banca, un deposito di beni, di bagagli e così via. La terza categoria dello Shomer e qui entriamo in un altro ambito, è lo Socher. Lo Socher sarebbe chi prende a nolo, noleggia un bene che appartiene ad un altro. Anche lui rientra nella categoria del Shomer perché è responsabile comunque di custodire, ma già entriamo in un altro tipo di categoria perché è lui che richiede l'uso del bene ed è pronto a pagare per quell'utilizzo. La quarta ed ultima categoria è simile a questa, ma con una importante differenza, ed è la categoria dello Shoel. Lo Shoel è chi prende in prestito. Quindi si tratta di un prestito gratuito, non paga, ma è sempre lui che richiede l'utilizzo, il proprietario del bene gli concede l'utilizzo del bene e chiaramente anche qui diventa chi noleggia diventa un shomer, deve custodire il bene. E quindi ecco qua che abbiamo quattro categorie che possiamo suddividere in realtà in generale in due categorie più generali, e cioè nei primi due casi il Shomer Chinam e lo Shomer Sachar, che sia un custode gratuito o pagato, in entrambi i casi è una richiesta da parte del proprietario del bene. Mentre negli ultimi due casi la richiesta è da parte di chi lo vuole usare, utilizzare il bene o l'oggetto, e di conseguenza c'è anche una differenza sul livello di responsabilità. Tutti quanti però rientrano sotto la categoria generale di shomerim, cioè custodi. E abbiamo in generale nella Torah Shebe'al Peh, nella Halakha, nella Torah orale, nella Mishnah, nello Shulchan Aruch, il termine delle categorie generali Arba'at Hashomrim, i quattro custodi. Ok? Andiamo un pochino avanti. In questa seguente Mishnah noi affronteremo un caso che riguarda i due ultimi Shomerim, le due ultime categorie, e cioè lo socher, colui che prende a nolo, e lo shoel, colui che prende in prestito. Bene, logicamente queste due categorie dovrebbero avere un livello di responsabilità più elevato rispetto a chiaramente il Shomer Chinam, e cioè quello della prima Mishnah, colui che custodisce gratuitamente, mentre invece il Shomer Sachar, colui che custodisce e riceve una retribuzione, è simile al livello di responsabilità dello socher, di colui che prende a nolo, in quanto, nonostante sia un custode e viene richiesto il servizio da parte del proprietario del bene, comunque è retribuito, quindi il suo livello di responsabilità è più elevato ed è simile a quello del socher, di colui che appunto noleggia. Ora, come abbiamo visto, nel caso in cui l'oggetto in questione sia stato rubato o sia andato perduto, in questi due casi abbiamo detto che il Shomer Chinam, colui che prende gratuitamente, è esente dal risarcimento. Lui deve giurare che non ha agito in maniera per poter facilitare ciò che è accaduto, cioè, in altre parole, ha effettivamente custodito e protetto il bene nel normale modo di farlo. Quindi non l'ha lasciato così per strada, in quel caso sarebbe obbligato a risarcire, ma rientrava nella norma di quello che avrebbe dovuto fare, quindi lui, non essendo retribuito, il livello di responsabilità richiesto è minore, non deve pagare, può fare il giuramento, appunto, ed essere esente. Cosa succede invece nel caso del Shomer Sachar, colui che viene retribuito, oppure che Socher, come vedremo adesso nella Mishnah, colui che noleggia? In questo caso la cosa sarebbe differente. Vediamo un po'. E la cosa includerebbe anche chi prende in prestito, naturalmente, perché chi prende in prestito, diciamo così, è quello che in qualche maniera è il più grande beneficiario tra tutti questi quattro tipi di shomerim, in quanto non paga e prende la possibilità di utilizzare, ha la possibilità di usufruire del bene. E allora chiaramente il livello di responsabilità è maggiore. Ok, vediamo il caso. Se accade che il bene che ho preso in prestito, oppure che ho noleggiato, è in qualche maniera non funziona più, oppure se un animale è morto, ma non per una negligenza da parte mia, ma proprio per una causa di forza maggiore, che anche se avessi fatto tutto, anche più di quanto sarebbe richiesto per custodirlo, sarebbe comunque accaduta questa cosa. Quindi non ho nessuna colpa, non c'è alcuna colpa da parte mia. In questo caso, cosa succede? Qual è il mio livello di responsabilità? Vediamo un po'. La Mishnah ci dirà che lo socher, colui che paga per noleggiare quel bene, nel caso di un ones, ones significa qualcosa che accade per forza maggiore senza alcun modo per evitare, per prevenire il problema. Allora, nel caso del ones, colui che prende a noleggio e paga per l'utilizzo è patur, cioè è esente, perché questa è una cosa imprevista totalmente. E quindi il contratto di quel noleggio prevede che una cosa che accade per forza maggiore, c'è un terremoto, l'animale cade in una buca e muore, non avrei potuto fare nulla per prevenire questa situazione e il contratto prevede che io sono esente in questo caso. Mentre invece per chi prende in prestito, la Torah dice esplicitamente che nel caso di un ones, e la Torah fa due esempi del caso di ones, ora vedremo, sono obbligato a risarcire il danno e quindi a pagare il valore del bene al proprietario. se noi apriamo la Torah, proprio la parashah che leggiamo questa settimana, Mishpatim, al capitolo 22, verso 13 del libro di Shemot, leggiamo: Vechishal ish me'imre ehu, se una persona dovesse prendere in prestito dal prossimo, venishbar omet, e l'oggetto si rompe, non funziona più, o nel caso di un animale muore, allora in quel caso shalem yeshalem, dovrà risarcire. Quindi prendi in prestito, che ne so, il cacciavite elettrico dal tuo vicino, ti serve solo per 2 minuti, e proprio in quei 2 minuti muore questo cacciavite elettrico, e non è solo un problema di batterie, mettiamo caso, teoricamente dovresti pagare. Ora, per quale motivo il Shoel, colui che prende in prestito, deve pagare anche in un caso così estremo, cioè il caso di forza maggiore? Secondo voi, chi prende in prestito non è solamente tenuto a diciamo a ridare indietro l'oggetto, il bene stesso, l'animale stesso, è tenuto a restituire il valore dell'oggetto. Cioè, mettiamo caso che è un prestito di denaro. Chiaro che quella banconota da 100 euro che io ti ho imprestato non andrà restituita la stessa banconota. Io la uso per investire, per lavorare, quello che sia. Poi quando ottengo 100 euro te li riporto secondo quello che ci siamo messi d'accordo. Va bene? Un prestito gratuito. Ma è il valore che mi deve restituire, non solamente, lo stesso vale quindi anche per il bene, che io ti ho imprestato il mio toro per arare il tuo campo, o la mia macchina per fare un tuo trasporto che dovevi fare. Il problema non è solamente la restituzione della macchina, ma del valore del bene che io ti ho imprestato gratuitamente. Di conseguenza, anche nel caso del ones, e cioè della perdita della morte o della diciamo rottura dell'oggetto, quello che sia, il non funzionamento, io sono obbligato a risarcire. Di nuovo, facciamo l'esempio del denaro, che è più facile capire. Se io dovessi prendere in prestito dei soldi da qualcuno e quei soldi poi vengono rubati, è chiaro che il stesso valore del denaro devo risarcire a chi me li ha imprestati. E questo si applica appunto anche ai beni, agli animali e così via. E allora nella Mishnah, prima di affrontare la nostra Mishnah, la seconda Mishnah del terzo capitolo qui del trattato Bava Metziah, vi cito la Mishnah nel trattato di Shavuot, che riguarda i giuramenti. Nell'ottavo capitolo di Shavuot, la prima Mishnah, l'elenco dei 4 Shomerim di cui abbiamo parlato finora, e come devono essere gestite le situazioni in cui succede qualcosa per ognuno di questi 4 shomerim. La Mishnah dice, Arba'a shomerim hen, esistono 4 categorie di shomer. Shomer chinam vea shoel, le prime 2 categorie. La Mishnah li separa in maniera prima i 2 dove non c'è uno scambio di denaro e poi i 2 dove c'è lo scambio di denaro. Quindi i primi sono shomer gratuito e chi prende in prestito, sempre un prestito gratuito di nuovo, e le seconde 2 nosse sachar vea socher, colui che prende in prestito, colui che custodisce il bene ma è retribuito per farlo, e il socher, colui che lo noleggia. E la Mishnah prosegue e dice, Shomer chinam, colui che prende gratuitamente l'oggetto e lo custodisce, allora nishba ala kol, non deve pagare in ogni caso, che sia anche, ovviamente non deve pagare nel caso di ones, cioè forza maggiore, ma anche nel caso in cui c'è stato un furto e l'oggetto è stato rubato e così via, come abbiamo già visto, lui deve fare il giuramento e non paga. Cioè può fare a questa opzione, come abbiamo approfondito nella scorsa lezione. Secondo caso, dice la Mishnah, ve'a shoel, colui che prende in prestito, abbiamo già visto, ha un livello di responsabilità molto elevato, meshalem et hakol, deve pagare in ogni caso. Nosse sachar ve'a socher, poi la Mishnah mette insieme, i due shomerim dove c'è lo scambio di denaro, e cioè colui che custodisce essendo retribuito o colui che noleggia, socher. Ci sono dei casi in cui potrebbero appunto essere esenti facendo il giuramento, e quali sono questi casi? Sono i casi appunto di ones, laddove ci fosse un ones, cioè un caso di forza maggiore, la Mishnah dice shevura, se si rompe, o shevuya, parlando di un animale, che si prende, che viene presa, viene rapita la bestia, oppure va alla meta, oppure se muore. Quindi perché questi tre esempi? Perché sono gli esempi che vengono fatti nella Torah. Pagano, però in quei casi giurano e non pagano, ma un meshalmim et aveda et geneva, ma i casi della cosa che è persa o derubata, allora in quei due casi noi consideriamo che loro avrebbero dovuto mantenere un livello più elevato di guardia, di protezione, e sono tenuti responsabili, devono pagare. Ora veniamo alla nostra Mishnah. La nostra Mishnah dice così. Il caso, ecco il caso, noi siamo i giudici e dobbiamo vedere come trattare la situazione. Hasocher para mechaverò. Colui che prende, fa un contratto di noleggio, noleggia una mucca dal suo prossimo. Ora diventa più interessante il caso. Veishila leacher. Io noleggio una mucca da un altro e poi mi trovo in una situazione in cui qualcuno, un terzo, avrebbe bisogno di questa mucca per il suo lavoro, e lui mi dice: potresti imprestare a me, hish illa, cioè shoel, potresti imprestare a me questa mucca per, non so, 6 ore o una giornata? E cosa succede durante questo periodo in cui io ho dato in prestito la mucca che io ho preso noleggio? Va meta che darka. Ora questa mucca è morta una morte naturale. Imprevisto totale. Ones, un caso di ones, e cioè forza maggiore. Non avrei potuto fare nulla per evitare questa situazione. Allora, cosa abbiamo detto? In un caso di ones, io ho preso il noleggio. Allora, essendo il noleggio, io pago, non lo faccio gratuitamente come uno che prende in prestito, pago comunque il servizio e di conseguenza sono tenuto responsabile, ma fino ad un certo punto, se c'è l'ones, abbiamo visto che io sono esente, posso giurare che c'è stato un ones, ovviamente devo poterlo sapere, e questo vedremo più avanti, devo giurare che c'è stato un ones e sono esente dal pagamento. E allora la Mishnah dice, appunto, Yishavà ha-socher shemeta kedarka, il socher, io che l'ho preso a noleggio, devo giurare che è morta una morte normale, naturale, che non si poteva evitare. Ok? Cosa succede però con quello che l'ha preso in prestito da me? La Mishnah dice una cosa che può risultare sorprendente inizialmente. La Mishnah dice, beh, Shoel, colui che l'ha preso in prestito, quindi la terza persona, Meshallem la socher, deve pagare a colui che l'ha preso a noleggio. Cosa significa? Bene, sappiamo che chi prende un prestito ha il livello più alto di responsabilità. Lui non paga nulla e usufruisce di tutto il bene. È un prestito gratuito. E allora è responsabile anche in casi di ones. Bene, questo è chiaro. Il Shoel deve pagare anche nel caso di ones. Ma a chi deve pagare in questo nostro caso specifico? Il proprietario non ha dato in prestito a nessuno. Ha noleggiato a me. Io ho dato in prestito. Allora sono io il soggetto che riceve il pagamento da parte dello Shoel, che è tenuto a pagare nel caso di un ones. Molto strano. Vediamo un po' di approfondire questo discorso. Prima di tutto, come subito fanno presente i commentatori della Mishnah, possiamo vedere nel Rav, Rabbi Ovadia di Bertinoro o di Bartenura, come viene chiamato più spesso, che è chiaro che questo atto di dare in prestito il bene ad una terza persona è assolutamente stato fatto con il permesso, con il benestare del proprietario originale. Se così non fosse, allora sarei io responsabile di tutto, come se fossi io a prendere in prestito, anche se ho preso in noleggio. Quindi la prima cosa bisogna chiarire di nuovo che questo è stato fatto con il permesso del proprietario. In altre parole, se volessimo fare l'esempio di una macchina a noleggio, allora normalmente questo non sarebbe un esempio giusto o comunque calzante per la nostra situazione. Perché? Perché prendendo una macchina a noleggio, oggigiorno c'è un contratto che limita l'utilizzo della macchina ai soggetti che sono indicati sul contratto, un conducente, due conducenti, quello che è. Quindi non posso darlo in prestito a qualcuno. Se lo facessi, sarei comunque responsabile io, qualsiasi cosa accadesse, e non l'eventuale altro conducente non riconosciuto. Ma ci sono casi dove invece è possibile, non so, un noleggio a lungo termine, un leasing di una macchina. In quei casi si riconosce nel contratto che è possibile che ci siano, spesso si potrebbe essere un contratto così, che si riconosce che ci potrebbero essere altre, potrebbero essere altri soggetti che conducono la macchina. In quel caso è come se, nel nostro caso della Mishnah, il proprietario ha dato il permesso, è d'accordo che una situazione così potrebbe accadere. In quel caso potrebbe essere valido quello che dice la Mishnah, che lo Shoel, colui che ha preso in prestito, ha a che fare con me, che io sono quello che ho preso in a noleggio la macchina. Se lo Shoel deve pagare, a chi deve pagare? A me. Io non devo pagare perché ho preso noleggio, e nel caso di Ones, forza maggiore, non devo pagare al proprietario. E di nuovo si crea una situazione un po' assurda. Ora, di nuovo, è molto strano. Ora, noi vedremo subito che nella Mishnah c'è chi discute. Ora vedremo una discussione nella Mishnah. La prossima opinione, quindi questo che abbiamo visto ora è la prima opinione della Mishnah. La prima opinione non è nominata, è anonima. La Mishnah non ci dice chi, nello specifico, sostiene così. E normalmente noi diamo un nome, per così dire, a questa prima opinione della Mishnah, in tutti i casi dove ci sono più di una opinione e la prima è anonima. Noi lo chiamiamo il Tana Kamma, cioè il primo Tana citato nella Mishnah, anche se è anonimo. Quindi l'opinione del Tana Kamma è questa, e vedremo che c'è una seconda opinione. Noi chiamiamo il Tana Kamma, con questo termine, che è un termine di un singolo, il Tana, il primo Tana della Mishnah, ma in realtà normalmente quando c'è una Mishnah che inizia con un'affermazione anonima, un'opinione anonima, si presume che questa sia l'opinione della maggioranza dei Chachamim. Cioè, non è anonima perché non è importante, al contrario, è anonima proprio perché è così importante ed è condivisa l'opinione dalla maggioranza dei Chachamim. Di conseguenza non è stato necessario applicare un nome specifico o dei nomi specifici all'opinione. Questo significa che molto spesso l'alakha finale, la sentenza finale dell'alakha, segue l'opinione anonima del Tana Kamma, del primo Tana, più che chi ci si mette contro, come vedremo. Anche se non sempre è così e non sarà così nella nostra Mishnah. Allora, di nuovo, il nostro Tana Kamma è dell'opinione che il Shoel, chi ha preso in prestito, deve pagare a me, che io sono quello che ho preso noleggio, e siamo rimasti con questa perplessità. Quindi una cosa che abbastanza sembra assurda. Anzi, la situazione potrebbe diventare ancora più assurda. Mettiamo caso che, questo lo fa presente la Gemara, mettiamo caso che io prendo noleggio da il signor Rossi quel bene, quella mucca della Mishnah, per un mese. Ok? Nel corso di questo mese il signor Rossi si accorge di dover usufruire del servizio della mucca per qualche ora. Però c'è un contratto in corso con me che io sono ora colui, il soggetto che usufruisce del servizio della mucca. Allora viene da me il signor Rossi, il proprietario, e dice: guarda, lo so che la mucca teoricamente adesso appartiene tra virgolette a te, ma me lo impresteresti per qualche ora perché mi serve. Ok, sì, adesso in questo momento non mi serve, te lo impresto. E in quei momenti muore la mucca. Ora cosa succede? Lui è il proprietario, ma è anche un Shoel. L'ha imprestato da me perché sono io quello che ritengo i diritti del servizio della mucca in questo momento a pagamento, noleggiato. Cosa succede? Lui deve pagare per la morte della mucca a me perché è un caso di ones, forza maggiore, lui è un Shoel, uno che prende in prestito. E io mi tengo i soldi e lui si perde la mucca. È assurdo. Dall'altra parte, qual è la logica in questa situazione secondo il Tanakama? Il proprietario non può dire nulla a me che sono il socher che ho preso in prestito e che, scusate, che ho fatto il noleggio. Perché? Perché non sono andato contro nessuna clausola del contratto e come abbiamo detto, il fatto di imprestarlo ad un terzo era con il permesso, con il benestare e quindi forse io, la logica direbbe, io non devo pagare perché questo il contratto non prevede che io devo risarcire quel tipo di danno dell'ones, ma se lo Shoel lo deve risarcire, a chi lo deve risarcire? A me che gli ho dato questo servizio. Io ho pagato per l'utilizzo, è come se fosse mio in questo momento. E durante questo tempo ho fatto con la bontà del mio cuore, l'ho dato in prestito ad un amico. Allora questo problema diventa il mio, il risarcimento è il mio. Questo è il pensiero del Tanakamà, il primo e anonimo Tana della Mishnah. Ora vediamo la seconda opinione, proseguiamo la Mishnah. E la Mishnah subito cita un maestro individuale, non un gruppo. Come potrebbe essere il Tanakamà, un gruppo di maestri, e dice: Amar Rabbi Yose, disse Rabbi Yose, Keitzad Halah Oseh Schorah Beparato Shel Chaverò. Com'è possibile che quest'altro, cioè lo Socher, io che l'ho preso a noleggio, faccio affari, guadagno con un bene che appartiene, con la mucca che appartiene a qualcun altro? E la tachzor parà la Bealim, dice Rabbi Yose. Rabbi Yose dice: se c'è qui un risarcimento, la mucca oppure il valore della mucca che sarà risarcito va ai proprietari originali. In altre parole, lui fa questa domanda retorica: dire, ma come fa lui a fare un affare con un bene che non gli appartiene? Dice: no, lo Shoel deve pagare. Come siamo arrivati alla stessa conclusione anche prima, chi prende in prestito deve risarcire, anche nel caso di ones di forza maggiore. Ma la domanda, chi dovrà pagare? Scusa, questo denaro che lui paga è esattamente il valore della perdita subita dai proprietari della mucca. Quindi va ridato ai proprietari della mucca. È come se, dice Rabbi Yose, è come se il proprietario della mucca abbia lui imprestato alla mucca, al terzo, allo Shoel. Proprio perché lo Socher, chi l'ha preso a noleggio, io l'ho dato con il permesso dei proprietari, quindi è come se io lo avessi fatto agendo come un agente dei proprietari originali, come uno Shaliach, come un agente. È sempre loro. Ho agito con il loro benestare, bene, l'ho fatto per loro. Io non sono niente qui. Ho noleggiato, ho pagato per il servizio, è morto, va bene, non è colpa mia, te lo ridò morto. Bene, però loro, in questo caso, tramite te, hanno potuto darlo in prestito a qualcuno. Bene, allora almeno non hanno perso. Perché chi prende in prestito deve pagare anche nell'ones. Questa è l'opinione di Rabbi Yosè. Cos'è effettivamente quello che sta dicendo Rabbi Yosè? Rabbi Yosè sta dicendo non tanto che il problema è se la seconda persona, lo Socher, chi ha noleggiato, guadagna per un investimento, tra virgolette, non suo. Non è questo il suo problema, non è che ci e si fa condizionare dal fatto che quello gli arriva qualcosa gratuitamente. Anche quello bisogna capirlo, ma non è questo il suo problema maggiore. Il problema maggiore è il fatto che qui c'è un ben e non riguarda lo socher, chi noleggia, ma riguarda il proprietario. Il proprietario è quello che, appunto, come ho detto prima, subisce la perdita e se c'è un risarcimento, il risarcimento deve essere il proprietario, è il suo bene. Se un bene che appartiene a qualcuno in qualche maniera frutta, produce un guadagno e non è previsto come investimento di una seconda persona come chi noleggia, è chiaro che quel guadagno, come il bene stesso, appartiene al proprietario del bene. Questo dice Rabbi Yosef. Quindi, molto bene, in questa situazione possiamo capire meglio le parole di Rabbi Yosef. Rabbi Yosef dice: com'è che tu puoi guadagnare, fare degli affari con un bene che appartiene all'altra persona. In altre parole, questo non appartiene a te. A chi appartiene? Guardiamo chi appartiene. Appartiene al proprietario? E nella stessa maniera anche l'eventuale guadagno appartiene al proprietario. E quindi, per ricapitolare, lo socher, chi ha preso a noleggio un oggetto e c'è stato un ones, problema causato senza poterlo prevedere, senza poter far nulla per prevenire. Ones, forza maggiore in questo caso, non deve pagare, ma il caso particolare della Mishnah è che la persona l'ha dato poi in prestito ad una terza persona. Chi prende in prestito non deve pagare, di nuovo è un prestito gratuito, il livello di responsabilità quindi viene ancora più elevato e deve pagare anche addirittura in caso di ones. Caso di ones significa forza maggiore. A chi deve pagare? Qui abbiamo la machloket, cioè la discussione nella Mishnah. Il Tana Kamma, primo Tana della Mishnah, e la maggioranza dei Chachamim sono dell'opinione che cosa? Che deve pagare alla persona dalla quale l'ha presa. Dalla quale l'ha preso in prestito. Cos'è che fa sì che lui deve pagare? Il fatto che l'ha preso in prestito, la sua categoria di Shoel, da chi l'ha preso in prestito? Dalla persona che l'ha preso a nolo. Allora deve pagare a lui. È come se fosse un guadagno inaspettato, spetta a chi ha fatto sì che questo guadagno possa esistere, che è la persona che ha preso a nolo. Rabbi Yosef dice no, questo non ha nessun senso, secondo me. Il bene appartiene ai proprietari e, se non c'è un accordo diverso, anche l'eventuale guadagno fruttato da questo bene è dei proprietari. E di conseguenza il valore va restituito a loro. La halakha, effettivamente, nello Shulchan Aruch, seguirà questa seconda opinione di Rabbi Yosef. Abbiamo parlato quindi oggi dello Shoel, colui che prende in prestito, abbiamo parlato dello Socher, colui che prende a nolo, e abbiamo parlato della casistica specifica del ones, e cioè della cosa causata per causa di forza maggiore. E abbiamo parlato di eventuali guadagni, tra virgolette, che potrebbero esserci in una situazione di questo tipo, se vanno a secondo di chi è il proprietario del bene o a secondo di chi è responsabile in quel momento di quel bene, che nel nostro caso sarebbe stato chi ha preso a noleggio, e abbiamo approfondito questo discorso con le conclusioni di entrambe le parti della Machloket, la conclusione che si segue Rabbi Yosef. Bezrat Hashem, alla prossima lezione.